Siete sempre all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato il lavoro di Shmoo, Music for Life Extensions, pubblicato da Orange Milk Records, e ci spostiamo su Planet Mule, etichetta di Mike Paradinas, uno dei autori e produttori più intelligenti e interessanti della scena britannica, che ci propone il nuovo lavoro di Rev, un EP che si chiama Stay Nomad. You'll listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Questo era un estratto dal lavoro di Rev su Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas di Music. Proseguiamo con un altro disco pubblicato appunto da questa label. Si tratta del disco di Shipscat che si chiama Initiatrix. My thoughts. E dopo il lavoro pubblicato dalla Planet Moo Records di Ship's Cat Initiatrix, andiamo avanti con The Black Dog, un progetto storico dell'elettronica britannica attivissimo dagli anni 90, che pubblica su Dust Chance questo lavoro che si chiama Loud Ambient, The Black Dog. Brain. This is Oxygen. Thank you. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. E questo è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato due estratti da Load Ambient, il nuovo lavoro di Black Dog, ma andiamo avanti con un altro nome storico della scena, questa volta tedesca. Si tratta di Atom TM, che a pochi giorni dal precedente Rheinmetall fa uscire un ulteriore lavoro che si intitola Exotrax. This is Oxygen. suo nuovo lavoro Exotrax, un EP con 4 tracce che segue a pochi giorni di distanza Rhine Metal, che invece è una suite di quasi 1 ora. Ma andiamo avanti, e un altro lavoro chiaramente, Moonson, pubblicato nel 2025 da Artefact. La traccia sotto la mia voce è Vertigo. You're listening to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era Artefact a Oxygen, qui dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. Restiamo su un dance ambientale con Sandwell District, un disco che è uscito ormai qualche mesetto fa, sempre targato 2025. Sandwell District. We'll be right back. for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo era Sandwell District, ma andiamo avanti con atmosfere dance ma sempre molto ambientali, con un disco che a me è piaciuto molto, uscito quest'anno, di un artista italiano di sede a Berlino, Claudio PRC. La traccia si chiama Manifestazione. Thank you. questo è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech, dopo Claudio PRC. Questa traccia si chiama Manifestazione ed è tratta da un lavoro davvero molto interessante che si intitola Self Surrender. Ma andiamo avanti con il lavoro di Rolando Simmons, Animatronics. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen.